Che se io fossi Bruto, e Bruto Antonio, qui ora ci sarebbe un Antonio che squasserebbe i vostri spiriti. Mi stupisco di parlare per incantarvi, mentre vorrei liberarvi per confondervi. Mentre che l'uno spirito questo disse, l'altro piangeva. Letture di Radio 24. Il giornalista Miles ripercorre la storia culturale della città inglese dal dopoguerra a oggi, dal jazz al mod, fino alla house music. Non eravamo lì per vendere oggetti e abiti alla moda, ma per convertire, educare e liberare. Volevamo far vivere a tutti, fino in fondo, le fantasie più selvagge. Non c'è sintesi migliore di queste parole di Vivienne Westwood per descrivere il ruolo che alcuni negozi di libri o di abbigliamento, bar, club e caffè, sedi di radio o di case editrici hanno fatto di Londra un magnete della creatività internazionale dal dopoguerra a oggi. Assieme a Michael McLaren, inventore dei Sex Pistols, Vivienne aprì alla fine degli anni 60 il mitico Sex, al numero 430 di King's Road. Molto più che una boutique di moda, un vero e proprio punto di riferimento per la generazione punk. Londra, del resto, con i suoi club, fu il quinto Beatle, come sosteneva il promoter del quartetto di Liverpool, Derek Taylor. Oggi di quei luoghi, concentrati a Soho, non resta granché. Ma un viaggio tra le strade che li ospitavano è un'occasione per ripercorrere la storia di una città che in Europa è stata il fulcro di trasformazioni artistiche, musicali e letterarie rivoluzionarie. Vi suggeriamo di seguire le indicazioni fornite dal giornalista e biografo inglese Barry Miles nel suo nuovo libro London Calling. Miles ricostruisce l'evoluzione della scena underground londinese dalle comunità di artisti costituitesi negli anni 40 attorno alla figura di Tambi Muttu e della sua rivista Poetry London, tra Fitzroy Square e Soho Square, fino ai nuovi bohemien, che dagli anni 90 in poi si danno appuntamento soprattutto nell'East End della città. Il cuore del libro sono gli anni 60 e 70, con la loro scena musicale indimenticabile, legata a doppio filo alla vita dei locali in cui gli artisti si esibivano, si conoscevano, registravano i propri dischi. Miles individua nel West End l'ombelico di quella controcultura e lì fa muovere e parlare personaggi come Francis Bacon, i Beatles e i Rolling Stones, i Fool e Vivienne Westwood, David Bowie e Boy George. Forse con qualche concessione nostalgica di troppo, Miles compone un viaggio che vede le sue svolte fondamentali negli anni 60 e negli anni 80. Con il Thatcherismo, molti artisti lasciano il paese e assieme alla house music, nei club il consumo di ecstasy soppianta quello di birra. In compenso, negli anni 60 non c'era un solo tavolino fuori dai locali. Ora Londra pareva Parigi. Negli anni 70, per trovare un panino dopo mezzanotte, dovevi guidare fino all'aeroporto. Ora Old Compton Street di notte era affollata quanto a mezzogiorno. Oggi la scena artistica si è spostata a East, tra Brick Lane e Spitalfields, ma quest'area, scrive Miles, era e resterà periferia, senza confronto con la storia secolare di accoglienza e incrocio di culture del West End. Ci permettiamo di dissentire, ammirati come siamo dalla rinascita di un quartiere che era in passato sinonimo di degrado e criminalità. E tuttavia, dopo la lettura di London Calling, ci è tornata voglia di rispondere al richiamo. Mappa alla mano. Avete ascoltato la lettura dell'articolo Il richiamo di Londra di Giovanna Mancini, in edicola oggi all'interno del Sole 24 Ore. Era l'11 luglio 1995, quando 40.000 profughi furono consegnati nelle mani dei loro carnefici dalle stesse truppe ONU che avrebbero dovuto proteggerli. A Srebrenica vi fu un massacro. Oltre 8.000 uomini e ragazzi bosniaci musulmani innocenti vennero uccisi a sangue freddo. Emir Suljagic, dipendente delle Nazioni Unite, è uno dei superstiti e raccoglie in un libro la sua testimonianza. Alcuni venivano a piedi e si fermavano all'entrata della base olandese. Altri arrivavano da Srebrenica con i camion bianchi dell'ONU. Arrivarono l'11 luglio portando notizie della caduta della città, stranamente rassegnati e in pace con il mondo e con se stessi, cullandosi nella convinzione che tutto, l'indomani, si sarebbe sistemato. Il cielo sopra di loro era squarciato dagli aerei della NATO ed erano esattamente le 2 del pomeriggio. Quel pomeriggio gli olandesi mi chiamarono e un ufficiale mi disse di rimanere presso quel varco per indirizzare la gente che arrivava. Io indicavo loro la direzione da prendere, alcune centinaia di metri avanti, fino a un grande capannone dove sarebbero entrati e dove qualcun altro avrebbe dato loro ulteriori indicazioni. Tutti volevano entrare, convinti che sarebbero stati più sicuri lì piuttosto che dall'altra parte della rete, dove si sentivano esposti, mentre dai carri armati e dai cannoni i serbi sparavano sulle case che distavano da loro alcune centinaia di metri. Ad ogni esplosione, a ogni colonna di polvere rossa che si alzava da una delle casse circostanti, si diffondeva il panico. La massa si agitava per un po', comprendendo poi, ben presto, che comunque non avevano dove andare. Non so come mi addormentai quella notte. Sveglio, aspettai il mattino nella stanzetta destinata a noi interpreti al primo piano dell'edificio dove si trovava il comando del battaglione olandese. I miei colleghi giacevano attorno a me in 4. Uno era sveglio come me, gli altri 3 dormivano il sonno dei bambini sfiniti. Così uscii fuori, nel giorno che avrebbe cambiato la mia vita. Dovevo compilare un elenco degli altri maschi nel campo. Era già pomeriggio quando, con carta a sufficienza e una penna, mi misi al lavoro. A quel punto si sapeva già che i serbi separavano le donne e i bambini dagli uomini e mentre i primi venivano portati verso il territorio libero, i pullman e i camion con gli uomini scomparivano a Bratunac. Gli ufficiali serbi, che controllavano attentamente l'evacuazione dei civili, avevano chiesto un elenco del personale locale e il comando olandese non desiderava contraddirli. Tutti quanti pensavamo che quando gli olandesi li avessero consegnati ai serbi, cosa ormai sicura, questi non si sarebbero arrischiati ad ucciderli se avessero saputo che i loro nomi erano annotati da qualche parte. Gli uomini mi guardavano impauriti mentre annotavo il loro nome, anno e luogo di nascita. Chiedevano spiegazioni, alcuni rifiutavano di dire come si chiamavano. Io rispondevo che non sapevo a che cosa dovesse servire l'elenco, che i serbi volevano probabilmente sapere se fra loro c'erano dei criminali. Dio, come volevano credere a quello che dicevo? La maggior parte annuiva obbediente, aggrappandosi a ogni mia parola come una salvifica pagliuzza. Erano in 239. Maggiorenni, affamati, stanchi, spaventati a morte, nervosi, insonni, canuti, magri, calvi, scuri di pelle, biondi. Di notte avevano patito il freddo dietro alle sottili pareti di lamiera. Di giorno avevano subito la calura sotto l'arroventato tetto metallico. Ce n'erano 239 e furono uccisi tutti. L'elenco con i loro nomi lasciò Potocari troppo tardi, 10 giorni dopo, nel convoglio con i soldati olandesi. I serbi non vennero mai a sapere che esisteva un elenco e probabilmente li avrebbero fatti fuori lo stesso, anche se lo avessero saputo. O forse no. Forse uno dei prigionieri, guardando le canne dei fucili, all'ultimo istante, oltre ai propri cari, oltre al figlio nato da 3 mesi, avrebbe pensato anche a quella lista. «Ehi, ma il mio nome è su quell'elenco, non potete fare una cosa del genere». Avete appena ascoltato la lettura di un brano tratto dal libro Cartolina dalla fossa, diario di Srebrenica, di Emir Suljagic, pubblicato da Beit.